La zanzara con Alessio Maurizi. Buonasera gentili ascoltatori, ben ritrovati anche questa sera in nostra compagnia con Diego Rovelli, Franco Piantadina in redazione, Fabio Cantadori in regia. Staremo insieme fino alle 20:30, 800 24 00 24, come ogni sera, per intervenire in diretta alla zanzara e radio24.it. Cominciamo con i titoli dei TG, Sky TG24. Monti presenta il piano Cresce Italia, misure su concorrenza e lavoro. I conti sono a posto, assicura il Premier, lo spread non va divinizzato. Il differenziale con il Bund resta alto, ma i tassi dei BTP decennali calano. Corre il prezzo della benzina verde da record sopra 1,70 euro. Bimba di 2 anni in gravi condizioni a Brescia, sospetti sui genitori. Incendio in un sottomarino nucleare russo, non ci sarebbero fughe radioattive. Stop ai botti da Bari a Torino, a Milano li vieta un'ordinanza antismog. Capodanno in musica a Roma con i Negro Amaro, a Salerno con la Nannini. Partisse che dalla clara, da intragliabile trasparenza, le tu querida presenza. E mezza di discorso, quasi tre per Mario Monti, sembrava Fidel Castro, un discorso lunghissimo, ma non sorprendetevi perché ogni anno è così, ogni anno qualcuno fa polemica sui discorsi del Presidente del Consiglio, troppo lunghi. L'anno scorso era stato Bersani a dire che Berlusconi aveva parlato sempre per 2 ore e mezza e sembrava il discorso di Kim Jong-il, scusate. E invece è sempre la stessa solfa, insomma, si prendono il tempo che serve per dire quello che devono dire. Monti come Fidel Castro. Vabbè, insomma, ci perdonerete. Iniziamo dal titolo della fase 2, Cresci Italia. Il pacchetto cosiddetto Salva Italia, e ciò di cui parliamo da oggi, non avrei obiezioni se decideste di chiamarlo Cresci Italia. Insomma, Monti si lamentano tutti, è moscio, è serio, è insomma anche un po' palloso, perché 3 ore di conferenza stampa di Monti sono sicuramente meno sopportabili di quelle che faceva prima Berlusconi, con annunci, continui annunci, anche qualche barzelletta. Però voglio dire, è un po' difficile. Questa è arrivata a Palazzo Chigi, si lamentano che è serio Cialbron. È arrivata a Palazzo Chigi, ha trovato una situazione dei conti pubblici disastrosa. Voglio vedere io come si fa a ridere. Ma scherzi a parte, io mi faccio una domanda: se prima con i politici di prima, con Berlusconi sostanzialmente, gli annunci e anche qualche barzelletta, siamo però allegramente finiti in una situazione non facilissima, sull'orlo, qualcuno dice, del fallimento, puoi vedere che per risolvere i problemi ci vuole gente seria. Vabbè, ma lo pongo proprio come una domanda, allora rispondeteci all'800 24 00 24. Ma cominciamo a sentire un po' di Monti. Non è che ci fosse sia stato molto in termini di annunci, appunto, per ribadire il fatto che Monti non è un uomo da annunci. Prima di tutto la piccola querelle con i giornalisti, perché gli è stata consegnata la tessera dei giornalisti come un riconoscimento, ha detto Monti, come una promozione. C'è stata su questo però anche una piccola polemica, ma sentiamo Monti. Consegnandomi la tessera dell'Ordine Nazionale dei Giornalisti, io la considero anche come una promozione, perché sono stato tanti anni fa, credo, iscritto all'albo dei pubblicisti, avendo scritto 3 o 4 articoli sui giornali nel corso della mia vita. E desidero assicurarla e assicurarvi che non mi sfugge la fondamentalissima importanza della stampa libera, indipendente e articolata per la vita civile e democratica di un paese e del nostro paese. La polemica è questa, e l'ha sollevata un esponente dell'Italia dei Valori, Borghesi, che dice il presidente dell'Ordine dei Giornalisti, che ha consegnato questa tessera dei giornalisti a Monti, ha colto l'occasione per parlare dei problemi della categoria. E secondo Borghesi, secondo me non ha tutti i torti, insomma è stato scelto un momento, trovata un'opportunità opportunità per difendere la categoria dei giornalisti non c'entrava granché, ma anche questo avviene più o meno ogni anno in questa occasione. Anche per il presidente dell'ordine dei giornalisti è una piccola tribuna questa qua. E sempre a proposito dei giornali che devono inventarsi dei titoli, perché Monti parla poco, e allora Monti dice: io non mi curo però di smentire quello che voi scrivete, anzi alle volte imparo anch'io quello che ho detto dai giornali. Noi seguiamo con enorme interesse quello che voi scrivete, o dite, presentate ai lettori, ai telespettatori, ai frequentatori di siti quotidianamente, e vi ringrazio proprio perché è una fonte di riflessione, di informazione. Non di rado io apprendo cose che ho detto leggendo. E poi la questione dello spread. Monti ha cercato di spiegare perché lo spread, che era sceso, cioè il differenziale, lo sapete, tra i tassi di interesse dei titoli italiani e quelli tedeschi, insomma era sceso quando lui è arrivato e ha annunciato la manovra, poi era risalito, ha tirato fuori un grafico, e mentre lo illustrava non si era accorto che dietro naturalmente qualcuno per lui aveva proiettato una slide con lo stesso grafico, però lui ha detto no, guardate quello che ho in mano io, perché insomma non ha perso l'occasione per fare il professore. Monti. Questo credo a grandi linee, spero che sia leggibile, è l'andamento dello spread, quindi differenza di rendimento tra il BTP e il Bund tedesco. Però guardate qui, perché ci sono delle linee di tendenza che là non vedete. A dire il vero, il grafico sembrava proprio lo stesso, quello che aveva in mano Monti e quello che invece era proiettato alle sue spalle, ma tant'è. Poi, forse l'unico sussulto di questa conferenza stampa a volerci trovare un'emozione in quello che ha detto Monti è stato quando ha detto che l'Italia è l'ago della bilancia, non dell'Europa, ma del mondo addirittura. Non è una cosa da poco, sentiamo. Da quello che l'Italia riesce a fare o a non fare in questi mesi e nei prossimi mesi dal punto di vista della politica economica dipende l'economia mondiale, perché da quello che fa l'Italia dipende l'economia europea e l'eurozona, e da quello che succede in Europa dipende largamente l'economia mondiale. Vi risparmio tutti i discorsi sulle liberalizzazioni, il contesto, perché di misure non se ne parla, il mercato del lavoro e quant'altro, perché davvero anche i siti online faticano a tirar fuori dei titoli da quello che è stato presentato oggi da Mario Monti. L'ultimo passaggio che vi facciamo sentire può essere rassicurante, perché Monti dice non serve un'altra manovra, cioè i sacrifici, quelli veri, potrebbero essere alle spalle. Nessuno pensi né che occorra un'altra manovra, nel senso classico della restrizione, né che siccome è stata fatta una manovra così pesante e robusta, adesso la fase della crescita significhi larghezza finanziaria. No, la fase della crescita è in sintonia con l'esigenza di continuare il consolidamento dei conti pubblici. E in che modo è in sintonia? Non esiste consolidamento sostenibile dei conti pubblici se il famoso denominatore dei rapporti che osserviamo giorno e notte, disavanzo PIL, debito PIL, cioè il PIL, non cresce adeguatamente. Insomma, però abbiamo voluto scherzarci un po' così, un Monti alla Fidel che tiene una conferenza stampa, se vogliamo, noiosissima come erano quelle di Fidel Castro per quasi 3 ore, ma ripetiamo, tutti gli anni è così, conferenze stampa lunghe, quelle di fine anno dei capi di governo. E restiamo su questa musica per lanciare un altro argomento che non c'entra nulla se non per quanto riguarda il continente sudamericano, perché il presidente venezuelano Chavez, la notizia credo che sia di ieri, l'audio noi l'abbiamo trovato oggi, è arrivato niente poco di meno che a ipotizzare il complotto americano che induce il cancro a lui e al presidente argentino Kirchner. La presidente americana argentina, scusate, Kirchner, che ha un cancro, l'annuncio l'ha dato qualche giorno fa, e Chavez dice: io mi domando se non sono gli Stati Uniti a mandarci il cancro. Una cosa incredibile, sentite. Hubieran desarrollado una tecnología para inducir el cáncer y nadie lo sepa hasta ahora, y se descubra esto dentro de 50 años o no sé cuánto, no lo sé, solo dejo la reflexión, pero esto es muy, muy, muy extraño. Che non haya dato cancer. È molto molto strano, dice. Io mi domando se non abbiano inventato, dice letteralmente, una tecnologia per indurre il cancro gli Stati Uniti. Parlava di fronte ad un'ampia platea. 18 e 20 minuti, 824 0024. Torniamo però ai fatti nostri, alla manovra, a Mario Monti, e salutiamo Stefano Fassina, responsabile economia e lavoro del Partito Democratico. Buonasera. Buonasera a voi. Fassina, lei era tra quelli che dicevano: beh, adesso ci vuole un cambio di passo, va bene il rigore nei conti, però non si può andare avanti solo su questo, che era il tormentone che tra l'altro aveva investito anche Tremonti prima come ministro dell'economia. Qualche giorno fa lei ha detto: bisogna correggere anche l'austerità di Bruxelles. È rimasto convinto da questo inizio di fase 2 o no? Ma è stata molto importante un'affermazione che il presidente Monti ha fatto all'inizio della sua lunga conferenza stampa, quando ha indicato chiaramente come obiettivo fondamentale del governo il lavoro da fare a Bruxelles. Lui ha detto proprio, cito a memoria, il lavoro da fare soprattutto nell'Unione Europea. Questo mi pare il punto di fondo. Oggi l'Italia, dopo la manovra, grazie a Monti, al suo profilo internazionale, grazie ai partiti che hanno votato la manovra di finanza pubblica a dicembre, oggi l'Italia ha la credibilità politica per poter negoziare con i principali partner europei una correzione di rotta della politica economica che sta portando l'euro ad una crisi drammatica. Ma che cosa dovrebbe dire l'Italia in Europa per questa inversione di rotta? Sì, innanzitutto dovrebbe far passare emendamenti al trattato intergovernativo. Oggi Monti ne ha parlato, ha detto che in queste ore appunto si sta emendando questo trattato intergovernativo, che è quello lanciato dal vertice di Bruxelles dell'8 e 9 dicembre. La bozza che circola è una bozza assolutamente insoddisfacente, perché è tutta ossessivamente concentrata sulle politiche di austerità e sulle sanzioni alle politiche di austerità. Non si parla in alcun modo di crescita, di strategie della crescita, di project bonds, di euro bond per finanziare investimenti, infrastrutture, sviluppo. Quindi siamo ad una situazione molto pericolosa, perché se il trattato passa in quella forma credo che ci aspettano anni molto molto difficili. Quindi il primo banco di prova per esercitare la credibilità riconquistata dall'Italia sono gli emendamenti a questo testo, che per quanto ci è dato sapere sono emendamenti, diciamo, la possibilità di emendarlo nella direzione della crescita è condivisa. Ma secondo europeo. Sì, secondo lei, Fassina, però Monti, che da alcuni è stato qualcuno dice adesso l'Italia è un protettorato tedesco, addirittura stiamo rendendo omaggio solo alla Germania e all'opinione pubblica tedesca, avrà la forza di portare questa posizione più sulla crescita e meno sul rigore? Sì, stavo appunto sottolineando che la posizione pro crescita non è solo una posizione italiana, è una posizione che da quanto sappiamo è condivisa dal Parlamento europeo e condivisa da altri governi, quindi non si tratta di fare una battaglia contro i mulini a vento. E noi siamo la terza economia dell'Unione Europea, non siamo gli ultimi arrivati. Fassina, lei che è un economista, ci aiuti anche un po' però a... Ora vabbè, abbiamo scherzato, Monti che non fa gli annunci, in effetti in tre ore comunque di conferenza stampa e anche con le risposte che ha dato ai giornalisti non è che sia venuto fuori moltissimo, però insomma qualcosa ci sarà da capire la direzione nella quale stiamo andando. Per esempio sul tema delle liberalizzazioni, è un tema tra l'altro caro al segretario del suo partito Bersani, che insomma ci aveva provato dal suo punto di vista. Non è che saranno poi solo alla fine di nuovo i taxi e le farmacie di cui si è già parlato e che non credo che da sole possano risollevare l'economia italiana. Lei che idea si è fatto? Ma da quello che si è capito, almeno che io ho capito dalla conferenza stampa, è che c'è un approccio un po' più generale e trasversale. Ad esempio, noi ci aspettiamo che vengano considerate anche le concessionarie autostradali, che rientrino nel periodo dell'autorità di regolazione e vigilanza sul trasporto pubblico, che le liberalizzazioni riguardano anche i servizi pubblici locali gestiti dai vari livelli di governo, regioni, province e comuni, che ci siano in mezzo anche le assicurazioni, anche il sistema bancario. Insomma, che ci sia un'operazione non simbolica in base alla quale si individua qualcuno e diventa diciamo il capro espiatorio della liberalizzazione, ma che sia un'operazione vera che affronti tutti i punti in cui c'è maggiore... Ma queste sono le vostre aspettative oppure lei ha ragione di credere che è quello che il governo si appresta a fare? In fondo il PD lo sostiene Monti, per cui avrà anche un'idea della marcia. Ma per ora sono aspettative non infondate, non campate in aria, ma aspettative costruite sulla base di indicazioni che sono venute, alcune anche oggi dalla conferenza stampa. Sul fronte del mercato del lavoro, anche qua c'è stata questa querelle sull'articolo 18, le frasi della Fornero poi in parte ritrattate. Oggi però Monti ha parlato nuovamente di flessibilità dell'economia, cioè ha detto ci saranno più ammortizzatori sociali, almeno rivedremo gli ammortizzatori sociali, cioè quelli che aiutano il lavoratore che perde il lavoro, quindi però ha detto lui in tandem con una maggiore flessibilità dell'economia, che vuol dire tutto e può voler dire nulla. Secondo lei su questa questione dell'articolo 18 si tornerà oppure no sulla libertà di licenziare più facilmente? Ma innanzitutto il dato politico rilevante è che le parti sociali verranno coinvolte in questa discussione. Mi sembra non rituale il coinvolgimento di cui oggi Monti ha parlato in conferenza stampa. Sono sicuro che qualcuno continuerà ad insistere su questo punto dell'articolo 18, perché nonostante l'evidenza indichi il contrario, c'è ancora qualcuno che pensa che l'articolo 18, la cancellazione dell'articolo 18 e la facilitazione dei licenziamenti voglia dire più crescita o minore precarietà. Sono sicuro che quando la professoressa Fornero, il ministro e il presidente Monti analizzeranno bene il mercato del lavoro italiano, si accorgeranno che gli ipergarantiti purtroppo non esistono, che se sono mai esistiti si sono sicuramente estinti da diverso tempo, che non ha senso contrapporre gli sfigati ai più sfigati, perché i precari hanno spesso padri che lavorano pur protetti dall'articolo 18, lavorano a 1.200 euro al mese o stanno subendo un lungo periodo di cassa integrazione o sono stati licenziati, perché ci sono quasi 500.000 di lavoratori cosiddetti ipergarantiti e protetti dall'articolo 18 che hanno perso lavoro negli ultimi 3 anni. Quindi credo che i dati di realtà porteranno il punto sull'articolo 18 fuori dalla discussione ci concentreremo sulla riforma degli ammortizzatori sociali, che invece è urgente per i precari e per quei tanti lavoratori e soprattutto lavoratrici che purtroppo perdono il lavoro a ridosso dei 60 anni e con il brutale innalzamento del pensionamento di anzianità rimarranno senza lavoro e senza reddito. Senta, ma invece con Pietro Ichino, con quale aveva avuto qualche polemica perché le sue posizioni, per esempio sull'articolo 18, sono diverse dalle sue, vi siete chiariti? Chi è che rappresenta la posizione del PD su questo argomento? Però mi risponda tra un attimo, perché prima credo abbiamo la pausa per le informazioni dalla borsa, tra poco di nuovo con Stefano Fassina. 18:33 minuti, di nuovo in compagnia di Stefano Fassina, economista del PD, e al quale avevamo chiesto, anche se la vicenda risale a circa un mese fa, la polemica con Ichino. Se è vero, come lei aveva detto dopo quella polemica, che il partito sta dalla sua parte, allora è Ichino che sta fuori dal Partito Democratico con le sue posizioni, per esempio aperto sulla flessibilità in uscita, licenziamenti, ma anche sulle richieste che arrivano dalla Banca Centrale Europea? Lei, la polemica era nata su questo, aveva avuto delle posizioni un po' più critiche nei confronti della BCE. Ma guardi, il Partito Democratico è un partito ampio con tante posizioni al proprio interno, poi agli organismi dirigenti che discutono e votano. Le posizioni che io porto, diciamo, che rappresento pubblicamente, sono le posizioni votate dagli organismi dirigenti del Partito Democratico. L'abbiamo fatto per quanto riguarda la riforma del mercato del lavoro l'anno scorso, l'abbiamo fatto poi di nuovo con una conferenza dedicata specificamente al lavoro, una conferenza nazionale dedicata al lavoro, l'abbiamo fatta a Genova a giugno, e le nostre posizioni non prevedono un'ulteriore facilitazione dei licenziamenti come via per contrastare la precarietà o promuovere la crescita. Dopodiché ci sono altre posizioni che non solo sono legittime, ma arricchiscono il dibattito Però al di là del dibattito, io capisco che certo c'è un dibattito, ogni partito ha più o meno un dibattito al suo interno e poi si fa la sintesi, però sembra che qualcosa si sia un po' incrinato. Il Partito Democratico è normalmente un po', me lo consenta, un po' caotico in questo dibattito, però ci sono per esempio le dimissioni dell'onorevole Lucia Codurelli, che è una parlamentare del PD, non so se lei ha conoscenza di questa notizia di qualche giorno fa, ex operaia, esatto, che ha mal digerito la manovra Monti, e quindi anche lì col sostegno di tutta la base lecchese, eccetera eccetera. Che succede nel PD? Si rischia una spaccatura? No, non si rischia una spaccatura, c'è in noi grande sofferenza perché il governo Monti ha preso dei provvedimenti che noi non avremmo preso, che sono stati dettati dall'emergenza, che sono dovuti al fatto che il governo Monti è sostenuto da una forza politica che è alternativa al Partito Democratico, e quindi per responsabilità nei confronti del Paese, come ha fatto l'onorevole Codurelli, che cerchiamo di convincere a ritornare al suo posto in Parlamento, abbiamo votato responsabilmente la manovra, ma con grande sofferenza, perché ci sono delle misure che a nostro avviso non vanno bene sul piano dell'equità, quella l'intervento di cancellazione delle pensioni di anzianità da un giorno all'altro è stato brutale. Si poteva arrivare al regime alla stessa soluzione, ma tenendo conto che ci sono uomini e donne in carne e ossa che a 60 anni perdono il lavoro e a 66, prima di arrivare a 66 per avere la pensione, c'è un lungo periodo di attesa o di vita senza reddito. Riteniamo sbagliato la penalizzazione dei lavoratori cosiddetti precoci, cioè quelli ma sono tante le cose che ritenete sbagliate, questo è il punto. Cioè, allora perché sostenete Monti se ci sono tutte queste cose sbagliate secondo voi? Ora le tra l'altro dicendo... sì, tra l'altro, scusi, aggiungo un altro elemento, che è quello della lotta all'evasione fiscale. Anche qua Bersani aveva chiesto incisività, secondo lei è stato fatto troppo poco anche su questo da Monti, o si accontenta? No, sono stati fatti passi avanti importanti. Tenga conto che noi dal 2009, chiedevamo che si facesse contribuire al risanamento e coloro che avevano condonato i capitali attraverso lo scudo fiscale. Non era una misura, tra l'altro, tutta da verificare, perché poi se entreranno. Intanto è stata approvata, è stato previsto un gettito. Per tanto tempo noi abbiamo insistito affinché ci fosse la comunicazione degli intermediari finanziari all'Agenzia delle Entrate, che è uno strumento molto efficace, quello dei conti correnti comunicati all'Agenzia delle Entrate, e quello è stato introdotto. È stata abbassata la soglia per la tracciabilità dei pagamenti, sono stati fatti passi avanti importanti, come per la prima volta dopo 3 anni e mezzo si è tornato ad occuparsi di economia reale, perché ad esempio è stato fatto un intervento sull'IRAP, è stato fatto un intervento per favorire la capitalizzazione delle imprese col governo Berlusconi. Questi due aspetti di contrasto all'evasione, di politica industriale, erano completamente assenti. Un'ultima cosa le vorrei chiedere, Fassina, riguarda il tema delle opere pubbliche, già che si attende di capire quale sarà la lista concreta delle opere pubbliche che verranno abbondantemente finanziate, perché c'è stato un CIPE, cioè comitato appunto apposito del governo su questo. Per esempio, secondo lei il ponte sullo stretto verrà lasciato fuori definitivamente da questo governo? Ma io spero proprio di sì. La nostra posizione, che è largamente condivisa, è concentrare le risorse che abbiamo sulle opere immediatamente cantierabili, perché abbiamo bisogno di dare un po' di ossigeno all'economia, far lavorare le imprese, soprattutto le piccole imprese, ed evitare ulteriori ricerche. Ma quindi meglio pagare la penale, che è piuttosto salata, che non procedere? Io direi secondo voi. È meglio correggere un errore che perseverare, poi evidentemente si dovranno fare valutazioni approfondite, però noi eravamo e rimaniamo contrari ad un'opera che non funziona e che ha un costo decisamente esorbitante rispetto ad altre priorità. Noi non abbiamo ancora una linea ferroviaria tra Bari e Napoli, farla costerebbe immensamente meno del ponte sullo stretto, avrebbe ricadute per l'economia e per la società decisamente maggiori. Va bene, senta, un'ultima cosa, secondo lei Bonanni, che è stato molto duro con Monti e oggi ha commentato, sì, va bene la concertazione ma sia una cosa vera, è disposto a trattare con questo governo oppure ha una posizione preconcetta contro Monti? No, non credo assolutamente che Bonanni abbia una posizione preconcetta, non mi pare che la CISL si sia mai mossa con posizioni preconcette. Certo, il governo Monti deve dimostrare alle forze sociali che fa sul serio, intende sul serio il coinvolgimento dei sindacati. Purtroppo il difetto che c'è stato per quanto riguarda la manovra ha sicuramente segnato in senso negativo i rapporti tra il governo Monti e sindacati. Noi riteniamo che il coinvolgimento delle parti sociali sia essenziale e credo che il governo Monti in questa seconda fase abbia intenzione, l'ha detto oggi stesso il Presidente del Consiglio, di avere un coinvolgimento vero, quindi mi aspetto risultati positivi. Benissimo, grazie Stefano Fassina, grazie, buona serata. 18:41, ascoltatori, Dario che chiama da Milano, buonasera. Buonasera, anche io oggi ho sentito il discorso di Monti, che indubbiamente è stato lungo, e ho sentito dire da più persone, noioso, logorroico, ma francamente in un momento serio come questo preferisco sentire una persona seria che delle barzellette. Chiusa parentesi, visceralmente mi verrebbe da dire che il governo Monti stia sbagliando, perché insomma l'aumento della tassazione, una contrazione dei consumi, ma lo lascerei lavorare, vediamo prima i contenuti della fase 2, se veramente hanno in prospettiva un rilancio dell'economia per poi da esprimere dei giudizi. Poi Maurizio, volevo complimentarmi con lei per la pacatezza e la tolleranza con cui gestisce gli interventi di noi ascoltatori, che si sa, non siamo sempre eruditi e colti come qualche suo esimio collega. Sì, grazie, sa, a volte bisogna essere anche un po' crudeli e tagliare la linea quando l'ascoltatore, ecco qui è caduta la linea, diventa in qualche modo noioso. Bisogna sempre ricordarsi che all'ascolto c'è tanta gente e quindi non è solo una questione di esprimere le opinioni, ma anche di dire qualcosa di interessante. Intanto, con un po' di ritardo, sentiamo i titoli del TG2. Ripete Conti al sicuro e dice nessun'altra manovra, ora via la fase crescita Italia, corsa ostacoli per il governo, la riforma del lavoro sarà equa. E di nuovo record per il prezzo della benzina che arriva a 1,722 euro al litro, prezzo più alto in Europa, in arrivo con il nuovo anno anche un aumento delle tariffe autostradali. Crolla a Palermo una palazzina, feriti tre operai, uno è rimasto per ore sotto le macerie, erano impegnati, forse in nero, in lavori di ristrutturazione dell'edificio. Aveva rifiutato una eredità milionaria, il barbone bruciato vivo a Bolzano, 250.000 euro in contanti, una villa e diversi appartamenti. Motivo? Voleva sentirsi libero. Ritornano di moda cotechino e zampone per un cenone di Capodanno a prezzo contenuto. Si prevede anche che consumeremo 10 milioni di chili di lenticchie. Queste previsioni le trovo sempre straordinarie, perché come il diavolo fanno a sapere quanto cotechino o lenticchie consumeremo? Va bene, Enzo da Viterbo, buonasera. Enzo? Si è addormentato, un silenzio di tomba mi verrebbe da dire. Allora passiamo a Luciano che chiama da Milano. Buonasera. Luciano? Sì, buonasera. Eccolo, buonasera. Sì. Allora, penso che il dottor Monti non ha nessuna fiducia del popolo italiano da quello che ha fatto. Perché io sono un imprenditore da 40 anni. Quando un'azienda è in difficoltà, d'accordo, sono i debiti, di solito vanno distribuiti nel tempo. Perché nel frattempo devo cercare di investire. Senta Luciano, sentiamo malissimo il suo intervento, per cui la pregherei di richiamare magari da un'altra angolazione. Proviamo a ristabilire il contatto. Andiamo a Marco che chiama da Milano intanto. Sì, buonasera. Buonasera. Sono Marco, sono sindaco di un comune in provincia di Milano, circa 14.000 abitanti, Basilio. Sì. Poi ho sentito la prima parte di provocazione, nel senso che lei ha detto all'inizio come vi è sembrato il discorso di Fidel Monti. Al di là del tono, che con tono professorale, i contenuti sono abbastanza lagunosi e vacui, nel senso che sono una serie di promesse, faremo, diremo, vedremo. Credo che ci sia bisogno però di vedere i fatti concreti, anche perché questo governo è un governo, ripeto, tecnico, che non è stato eletto da nessuno e non è rappresentativo di nessuno. Poi ho sentito anche in parte l'intervento che ha fatto il professor Fassina, se ricordo male, che è l'esperto economico, sì, della, sì, del PD. Interessante il suo punto di vista, ma non condivisibile, nel senso che non è che abbiamo più credibilità oggi perché c'è questo governo in Europa. Noi siamo, tra virgolette, una vacca da mungere per l'Europa e in particolare per la Germania. Il nostro debito privato, lei sa meglio di me, che è uno dei più bassi del mondo, mentre il debito pubblico è uno dei più alti, non il più alto, ma dei più alti, anche perché lei sa meglio di me che la Germania trucca, fra virgolette, i conti, perché per esempio la cassa dei depositi e prestiti non rientra nei debiti dello Stato, come altri tecnicismi. Detto ciò, noi rappresentiamo purtroppo un anello debole di un sistema europeo, nel senso che siamo la famosa, ripeto, vacca da mungere per poter far ingrassare buona parte dell'Europa. Noi abbiamo una politica. Sì, sì, ecco, anche questo è importante. È vero, la vacca da mungere. Tra poco le dedichiamo anche, dopo la pausa per il traffico, Natale di Merkel, che è un po' la filosofia della vacca da mungere, cioè crozza nei panni di Angela Merkel. Ci abbiamo scherzato su nei giorni scorsi e gliela dedichiamo volentieri. Ricordiamoci però che oltre ad essere l'anello debole dell'Europa, siamo anche noi stessi che con le nostre mani ci siamo fabbricati un debito pubblico che non poteva più essere tollerato e aveva messo sul chi va là gli investitori che investono appunto sui titoli del debito pubblico. Non ce lo dimentichiamo, perché altrimenti non è corretto. di Merkel, vi porto gli auguri della BCE, dice la Merkel, porca troia, rispondono gli italiani in coro, la vostra manovra, replica la Merkel, ha salvato anche me. Così la vede Maurizio Crozza, così la vedeva l'ascoltatore di prima, noi siamo la vacca da mungere, ha detto, dell'Europa. Io ho aggiunto, ricordiamoci che però il debito pubblico ce lo siamo fabbricato da solo e l'Europa non c'entra nulla. Ma che ci sia una sintonia tra Monti e la Germania è indubitabile. Oggi Monti così ci ha scherzato sopra ricordando un ritratto che gli ha confezionato sulla stampa tedesca, sentiamolo. Io ho ricevuto sulla Süddeutsche Zeitung il più bel complimento che abbia mai ricevuto. La Süddeutsche Zeitung ha scritto che il nuovo primo ministro italiano Mario Monti è il genero ideale. Perché parla poco, lei oggi qui non avrà la stessa impressione, ma parla poco, veste in modo serio e banale, non è molto rumoroso, quindi ecco, credo che agli occhi dei tedeschi sia già, insomma, il più è fatto. Si capisce abbastanza, Natale di Merkel con le pezze al culo. Va bene, e allora adesso sentiamo anche qua con un pochino di ritardo i titoli di studio aperto e poi riprendiamo con gli ascoltatori. Conti pubblici in sicurezza, eviteremo lo scontro sulle pensioni. Nella conferenza stampa di fine anno il Premier Monti illustra il piano del governo per rilanciare l'economia. Non ci sarà un'altra manovra, spiega. Da oggi inizia la fase Cresci Italia. Una bimba di 2 anni, fin di vita, all'ospedale, è caduta dalle scale, hanno raccontato i genitori, 2 egiziani che vivono a Crema. Il corpo però è pieno di lividi, i medici sospettano che la piccola sia stata picchiata selvaggiamente. Sono tornati i cani molecolari a Pescara, si vagliano centinaia di segnalazioni, ma di Roberto ancora non c'è traccia. La famiglia non crede all'ipotesi di un vuoto di memoria e in città è allarme anche per una 17enne sparita con la figlia neonata. È morto carbonizzato la sera di Natale mentre cercava di riscaldarsi con un piccolo falò. Ora si scopre la vera storia di Hans Cassonetto, il barbone più famoso di Bolzano. La madre gli lasciò in eredità 250.000 euro e una villa, ma lui preferì fare il clochard. Capodanno senza botti e non solo in Italia, anche Parigi ha detto no, niente spettacoli pirotecnici, vietato esplodere petardi. La Ville Lumière farà silenziosa compagnia a Torino, Venezia, Bari e da ultima Palermo. Insomma, non siamo gli unici a fare Natale austero senza botti, questa cosa che accadrà anche a Parigi, ce li vedo poco, i parigini a non far casino, ma insomma. Allora, riprendiamo con gli ascoltatori, Bruno da Milano direi, buonasera. Eccolo. Prego. Mentre ascoltavo la conferenza del professore mi sono fatto 3 domande oggi pomeriggio. La prima: si è dato anche delle risposte o no? Sì, no, magari con il vostro aiuto. Cominciamo. Quanti dei nostri attuali parlamentari hanno secondo noi seguito queste 3 ore pallosissime, come qualcuno ha detto? La seconda, molto più cattiva: quanto avrebbero capito se avessero seguito? E la terza, dico io, come riusciremo a riabituarci a sentire tutte queste stupidità che anni abbiamo sentito da parte di incompetenti semplicemente arruffa popolo. Non ho capito l'ultima domanda. Allora, la prima, quanti parlamentari hanno seguito Monti? Secondo io credo voi, pochi. Secondo voi. La seconda, cosa ci avrebbero capito? Forse capito ancora meno. Ecco, ma la terza domanda non l'ho capita. La terza era dire come possiamo riabituarci una volta che questo governo tecnico avesse esaurito il proprio mandato a riavere questi arruffa popolo e così pressatisti, gente che certo si è inventata, che non ha una minima preparazione nel trattare cose molto molto molto serie che vengono senz'altro prima della politica. Quindi prima si fa economia e poi si fa politica. Purtroppo hanno rovesciato il tutto facendo prima politica e poi economia. Grazie. E sicuramente dovremmo un po' disintossicarci dalla politica, forse, almeno questo è il mio punto di vista, che abbiamo vissuto fino a prima del governo Monti, perché eravamo abituati appunto ad annunci continui, a una comunicazione fortissima, d'altra parte Berlusconi su questo è fortissimo, ad annunci a cui non sempre, però aggiungo io a questo punto, visto anche la situazione in cui ci siamo ritrovati, seguivano poi dei fatti reali, ma insomma tant'era. Le barzellette poi di Berlusconi, tutto il contorno fatto anche di temi più o meno divertenti come le signorine, il tema stesso delle escort che era diventato un po' un gingillo per molti italiani che assistevano a questo spettacolo, che spettacolo era, nel bene o nel male, ognuno poi giudica, ma insomma dovremmo fare a meno di tutto questo e tornare a una politica più noiosa, forse più noiosa, però ecco, per esempio parliamo di liberalizzazioni, come si fa a liberalizzare senza prendersela solo coi tassisti per esempio, oppure liberalizzare anche i servizi dei trasporti senza penalizzare chi ha pagato una licenza? Questa è una cosa che secondo me può essere interessante, può meritare un dibattito, aspettiamo che questo accada e che quindi si passi dai grandi temi, dai grandi annunci e dalle barzellette anche a cose più spicciole come queste, che però forse alla fine poi condizionano la vita di ognuno di noi, forse più delle barzellette. Fatto il pistolotto, farei sentire un altro ascoltatore. Chi abbiamo? Alberto dalla provincia di Brescia, buonasera. Buonasera. Senta, io volevo fare un intervento facendo una breve differenziazione tra serietà e seriosità. Io ritengo che il professor Monti sia una persona seriosa, forse anche una persona seria, però non sempre la seriosità equivale a essere seri. Questo è vero, lei è stato molto sottile. Qual è la differenza, spieghiamolo, tra seriosità e serietà? È difficile. Allora, si è imbarcato su questa cosa lei, sì. Ok. Nel 1991 Bush padre, io ero negli Stati Uniti, decide la prima guerra contro Saddam e la decide col suo cappellino della squadra di baseball, sapeva che sarebbero morte persone, una scelta molto seria, inevitabile secondo il loro punto di vista, presa col cappellino in testa. Questa è una scelta seria fatta in modo non serioso. Quindi questo è il punto. In questo momento c'è rigore. Però lei ha fatto un esempio, allora io la seguo, una scelta seria fatta in modo non serioso, però è stata anche, come vogliamo definirla, una guerra fallimentare? No, ma non entriamo nel merito. Come no, scusi, però, perché è proprio di questo di cui stiamo parlando. Forse se fosse stato un po' più serioso, magari gli veniva meglio quella decisione, perché si ricordi che quella guerra è finita pochi giorni fa, tra l'altro. No, la prima guerra, quando ha invaso l'Iraq. Sì, ha ragione, parliamo della vinta. L'ha vinta, ha liberato il Kuwait, quindi niente, la guerra era stato un successo, la Desert Storm era, mi riferivo a quella. Sì. Comunque, un successo come può essere una guerra, ecco, non voglio perché entrare nel merito. Poi Bush figlio ha fatto la stessa cosa, però con un grosso insuccesso. Esattamente, comunque, sì. Però io mi riferivo a quell'evento e basta. Allora, io in questo momento non mi sento di poter dare una valutazione del professor Monti, in questo momento c'è sicuramente una politica più seria, che forse era necessaria anche perché eravamo caduti un po' dalla mancanza di serietà e di seriosità a proprio ridicolo, quindi questo è chiaro e quindi fa bene secondo me a prendere questa posizione seriosa e rigorosa. Poi vedremo se queste strade porteranno a una direzione positiva nelle scelte, nella sostanza, e lo spread scenderà, come lui dice non è giustificabile che sia così alto, eccetera, eccetera, però in questo momento non vediamo una differenza nella sostanza da un punto di vista di attacco contro di noi, dei speculatori, eccetera, tra il governo Berlusconi e il governo Monti. Questa è l'analisi sulla seriosità di Monti. Sulla serietà vedremo gli effetti che porterà la manovra. Grazie anche a questo ascoltatore. 824 0024, torniamo subito dopo il giornale radio. La zanzara. Ben ritrovati in diretta fino alle 20.30, cari ascoltatori. 349-238-6666 per i vostri SMS. Tra poco sentiremo e vi racconteremo anche alcuni primi commenti che arrivano al discorso di Monti. Prima però titoli TG3. Monti per la crescita, misure in tempi rapidi, le prime a fine gennaio, eviteremo tensioni sociali, escluse altre manovre, non mitizzare lo spread. Gli interventi per la concorrenza insieme alle riforme del mercato del lavoro, negoziata con le parti sociali, welfare meno costoso e sostenibile. Positive le reazioni di PD e PDL al discorso di Monti, no della Lega, Di Pietro una televendita nello stile Berlusconi, ma valuteremo le misure. All'asta dei BTP i tassi scendono, ma meno che in quella dei bot non tutti venduti i titoli a lungo termine, lo spread resta oltre quota 500. Per l'Istat un italiano su quattro è a rischio povertà, più esposti i giovani, il 16% delle famiglie fatica ad arrivare a fine mese. Riforma del catasto, in provincia di Salerno il record delle case fantasma, oltre 100.000 abitazioni, non necessariamente abusive ma mai dichiarate. Dai PM l'ex giocatore Sartor, per la procura sarebbe il contabile del gruppo illegale, nessun conto cifrato in Svizzera per il CONI Serie A regolare. Dice che dalla clara, da entrañable trasparencia, de tu querida presencia. Fidel Monti, abbiamo scherzato, un discorso di quasi tre ore, lunghissimo. L'anno scorso Bersani si era lamentato con Berlusconi che diceva ha fatto un discorso alla Kim Jong-il, quest'anno noi diciamo Monti ha fatto un discorso alla Fidel, famoso per i discorsi politici lunghissimi che teneva il presidente cubano. Ma vabbè, è normale che i discorsi di fine anno siano sulle tre ore, insomma non c'è niente, però quest'anno nessuno si è lamentato di questo, dico stranamente. C'è poi da registrare tra i commenti quello di Berlusconi che dice: Monti nella conferenza stampa di fine anno, citando le mie parole, ha riconosciuto che il fattore psicologico è decisivo per uscire dalla crisi, che un moderato ottimismo anche da parte dei mezzi di informazione è indispensabile. Lo ringrazio perché non ho mai visto un pessimista fare qualcosa di buono nella vita, e questo è il classico piglio berlusconiano. Cosa ha detto Monti a questo proposito? Non so se abbiamo l'audio, a dir la verità non credo, forse sentiremo più avanti. Ha detto Monti: c'è una frase del mio predecessore che condivido moltissimo, ed era proprio relativamente alla fine della conferenza stampa dell'anno scorso, quando Berlusconi aveva invitato, lo sapete, l'ha fatto mille volte, i mezzi di informazione a spargere ottimismo. Poi però Monti ha detto a questo proposito: io mi astengo da qualunque invito ai giornali, ma sono sicuro che lo sforzo che stiamo facendo è una cosa che può giustificare moderato ottimismo. Insomma, i toni sono molto diversi. E allora sentiamo un pochino di Monti, prima di tutto sul titolo di questa fase. Si passa da Salva Italia, che ci poteva stare, a bruttarello dal punto di vista del neologismo, Cresci Italia. Il pacchetto cosiddetto Salva Italia, e ciò di cui parliamo da oggi, non avrei obiezioni se decideste di chiamarlo Cresci Italia. Fidel Monti, così. Allora, un altro passaggio della conferenza stampa nella quale, come anche nei titoli del TG3 si ricordava, non è venuto fuori molto, qualcuno ha parlato di una telepropaganda. Però sappiamo che Monti non è uomo da annunci. Dice però Monti: fase 1, fase 2 non cambiano gli obiettivi, sentiamo quali sono. Crescita, equità e consolidamento dei conti pubblici. Ebbene, questo terzetto di obiettivi è lo stesso nella fase detta spesso 1, che si è conclusa, e nella fase che voi amate spesso definire 2, nessun problema, che sta per aprirsi. Perché? Perché sono solo cambiate le concentrazioni di peso in questa miscela. Quindi volevo chiarire che non vedo una fase 1 e una fase 2, se non una successione di calendari. E devo dire che in queste ore, così, stando alle dichiarazioni degli esponenti politici, sembra di vedere un PDL molto più a suo agio del PD. Abbiamo letto prima la dichiarazione di Berlusconi su questo feeling con Monti sull'ottimismo. Invece c'è un Bersani che fa una dichiarazione un po' criptica, A proposito del 2012 per il suo partito, dice sarà l'anno del battesimo per il PD, ci siamo da 4 anni, ma ora la fase è cruciale, se il PD darà il suo contributo personale responsabile di tenuta, saprà far capire che guarda ad un paese più giusto, vuol dire che il nuovo secolo avrà un grande partito riformista, così ha detto Bersani. Sembra quasi mettere in discussione che questo possa avvenire, cioè quasi che metta in discussione la tenuta del PD alle prese col sostegno al governo Monti. Forse è una mia interpretazione, ma forse no. Sentiamo ancora Monti, il feeling con l'opinione pubblica tedesca, e così Monti scherza sul fatto che un quotidiano tedesco lo ha ribattezzato il genero ideale. Io ho ricevuto sulla Süddeutsche Zeitung il più bel complimento che abbia mai ricevuto. La Süddeutsche Zeitung ha scritto che il nuovo primo ministro italiano Mario Monti è il genero ideale. Perché parla poco, lei oggi qui non avrà la stessa impressione, ma parla poco, veste in modo serio e banale, non è molto rumoroso, quindi ecco, credo che agli occhi dei tedeschi sia già, insomma, il più è fatto. Col suo modo un po' stralunato, un po' molto compassato, però Monti, Fidel Monti, riesce ogni tanto a strappare anche qualche sorriso a chi lo sta a sentire. Ma abbiamo forse l'audio proprio di Berlusconi che commenta il discorso di Monti, sentiamolo. Il presidente Monti, nella conferenza stampa di fine anno, citando le mie parole di un anno fa, ha riconosciuto che il fattore psicologico è decisivo nell'economia e che un moderato ottimismo, anche da parte dei mezzi di comunicazione, è indispensabile per uscire dalla crisi. Lo ringrazio perché non ho mai visto un pessimista realizzare qualcosa di buono nella vita. Ragazzi, fate come vi pare, ma questo è proprio freudiano. Cioè, Berlusconi, di 2 ore e mezza di discorso di Monti, che cosa è andata a pescare? La citazione di Monti nei suoi confronti. Beh, è lecito da parte sua, ovviamente, gratificarsi su questo, però insomma, il personaggio Berlusconi è sempre, diciamo, molto così autoreferenziale, ecco, se vogliamo. Adesso mi sono un po' perso, che cosa abbiamo? Abbiamo gli ascoltatori all'824 0024, prima però salutiamo il nostro prossimo ospite nella persona di Don Zappolini, un parroco della provincia di Pisa, Perignano per l'esattezza. Sì, buonasera. Allora, Don Zappolini, la vicenda è questa, lei ha preparato un presepe con dentro l'immigrato al posto di Gesù Bambino e a qualcuno non è piaciuto, hanno chiesto al vescovo di intervenire perché diceva che lei stava strumentalizzando il Natale. Come è andata a finire questa vicenda? Ce la racconti? Da, è andata a finire, abbiamo fatto questo presepe immaginando Gesù Bambino per quello che realmente poi era, come il figlio di una coppia di genitori stranieri. Abbiamo immaginato Gesù nato in Italia da genitori stranieri e abbiamo usato lo slogan della campagna che stiamo portando avanti da diversi mesi per il diritto di cittadinanza, d'Italia sono anch'io, dicendo venite a firmare perché anche Gesù possa diventare un domani cittadino italiano. E vedendo in Gesù tutti questi ragazzi, questi minori stranieri, 3 erano presenti anche con dei personaggi del presepe, per far capire come sia veramente ingiusto e fuori dal tempo che bambini e ragazzi che sono qui in Italia, addirittura che sono nati in Italia, non possano facilmente diventare cittadini italiani. Ecco, però poi qualcuno ha protestato perché dicono che lei si è andato a mettere in una vicenda, diciamo, di politica, di attualità, che non c'entra col Natale, ha voluto strumentalizzare questa cosa per fare una battaglia politica. Chi è che si è presa con lei? Ma se l'è presa con me di esponenti di Forza Nuova, qui della zona. Movimento di destra, no? Movimento di estrema destra. Io in genere non ho, quando anche è successo altre volte che mi hanno messo un po' nel mirino per le mie uscite, per le mie riflessioni, in genere non avevo mai voluto neanche rispondere, però questa volta proprio c'era un tono anche di minaccia, di cattiveria che secondo me è veramente fuori da ogni logica, anche perché insomma sono poche settimane che abbiamo vissuto questa tragedia di quel folle che ha ucciso i ragazzi senegalesi a Firenze e non si può più trascurare la violenza delle parole, non si può più far finta che siano solo tre persone fuori dal mondo, perché quando si arriva a dire o ti fermano i vescovi o ti fermeremo noi, si esce fuori anche dalla polemica, si esce fuori anche da... Così le hanno detto, ti fermeremo noi. Il tono è stato quello, se il vescovo, frate, che mi ha difeso, che ha condiviso... Ecco, che cosa ha detto il vescovo esattamente? Cioè non l'ha ripresa per questa sua interpretazione? No, il vescovo condivide con me, fra l'altro... proprio ha detto non c'è bisogno di intervenire, a lui stesso si è detto, favorevole all'ampliamento del diritto di cittadinanza, quindi insomma c'è veramente una condivisione profonda. Poi per noi cristiani il Natale è proprio una festa che fa vedere questa presenza di Gesù nella vita, nelle persone semplici. Don Zappolini, la stiamo perdendo, no? Eccolo. Sì. Senta, ma perché proprio, proprio Gesù Bambino come il figlio di immigrati e non per esempio un'altra figura, diciamo, di sofferenza dal punto di vista della nostra società, come per esempio un lavoratore che ha perso l'occupazione, cosa che sarebbe altrettanto d'attualità? Noi abbiamo fatto gli anni passati la prima crisi della Fiat e facemmo il presepe dentro una carcassa di una panda in chiesa. Ah, quindi lei è abituato a fare queste estrapolazioni? Sì, abbiamo fatto ogni anno, c'è sempre stato un presepe che cerca di attualizzare nella nostra chiesa di Perigliano il senso più vero del Natale, che è questo illuminare le periferie, le semplicità, i bisogni delle persone. Quest'anno ci è sembrato opportuno unirsi a questa campagna, fra l'altro io sono presidente nazionale del CNCA, delle comunità di accoglienza, siamo uno degli organismi che hanno fatto i promotori di questa campagna, mi è sembrato giusto caratterizzare il Natale su questa situazione di tanti, di migliaia di minori stranieri che in Italia devono poter accendere la cittadinanza. Poi Gesù è comunque un minore straniero, se noi lo celebriamo nato in Italia nel Natale, però i genitori sono palestinesi e quindi ci sembrava... che non ci fosse nessuna forzatura, ecco. Sì, Don Zappolini, che Natale è stato questo qua per lei, diciamo così, impegnato anche su questi fronti con persone che hanno bisogno d'aiuto? Si è detto un Natale di crisi, un Natale di austerity. Lei come l'ha vissuto? Un Natale di grandi difficoltà, c'è un senso di smarrimento e di solitudine in tante persone nel nostro paese. Mm. E coloro che davvero si mettono accanto alle persone più fragili condividono davvero tutta questa fatica, e un Natale che ci porta un anno di grandi difficoltà. Ma più che in passato, secondo lei? Più che in passato, anche perché questa crisi veramente sta portando a scivolare nella povertà fasce di popolazione che erano vulnerabili ma che avevano la loro dignità. Io sono anche parroco, qui ci sono situazioni di famiglie alle quali noi con la Caritas diamo continuamente un piccolo supporto, perché no, basta una piccola cosa sul lavoro, sulla salute, che veramente si scivola in una situazione di grandi difficoltà, insomma, per cui c'è bisogno davvero di dare una svolta anche diversa di centralità dei bisogni delle persone, e bisogna davvero che il paese recuperi anche dei segni di speranza che partono da un'attenzione alle situazioni concrete della gente. E secondo lei, per esempio, non so se ha seguito in televisione o ha saputo del discorso di Monti, insomma, al di là del discorso di oggi del Presidente del Consiglio, secondo lei questo nuovo governo può dare dei segnali, come lei dice, di recupero della fiducia o no? Troppi sacrifici? Sulla manovra del governo mi sono già espresso alla fase 1 dicendo che secondo me pagano sempre soliti e non si può pensare di prendere sempre nei soliti posti, perché i pensionati, i lavoratori dipendenti, cioè se la casa, l'IVA, la benzina. Non ho seguito ancora il discorso di oggi perché sono rientrato da poco da una carovana antimafia, abbiamo portato un trattore a una cooperativa di Libera che lavora ben di confiscati a Lentini, a Siracusa, quindi sono stato oggi tutto il giorno in viaggio e sto mettendomi ora in rete un po' con le notizie, ecco. Ma certo la sensazione non è secondo me molto, molto favorevole ad avere fiducia. Speriamo che ci sia. Va bene, grazie. Fra l'altro sta andando via l'audio. Grazie Don Armando Zappolini per essere stato con noi. Torniamo con gli ascoltatori subito dopo la borsa. Tre ore di discorso. discorso di Fidel Monti, alti sono alti tutti e due, Fidel Castro e Mario Monti, seri sono altrettanto seri tutti e due, qua finiscono però le cose in comune tra Mario Monti e Fidel Castro. Certo che non so chi ha parlato di telepropaganda per quanto riguarda le parole di Monti oggi, ma c'è poco di telepropaganda, c'è poco di tutto. I titoli proprio di Corriere.it: conti pubblici in sicurezza, nessuno pensi a un'altra manovra, è quello che riesco a tirare fuori dal Corriere. Repubblica: Monti, ora la fase Cresci Italia, che è il titolo, cioè che già si poteva fare ieri questo titolo qua, cioè dopo tre ore di discorso non c'è sostanzialmente notizia. Sentiamo invece Berlusconi, abbiamo sentito prima il passaggio sull'ottimismo, la frase che Monti ha citato a proposito di Berlusconi, adesso invece Berlusconi che dice: siamo, sosteniamo Monti, ma siamo pronti anche, credo che dica così, alla campagna elettorale. Noi abbiamo assicurato il nostro leale sostegno al governo dei professori, ma dobbiamo essere pronti ad ogni evenienza e dobbiamo comportarci come se la campagna elettorale per le prossime elezioni fosse già in corso. Il nostro partito, lo sappiamo bene, è coeso, non teme la concorrenza di nessuno, anzi, abbiamo le porte aperte per chi come noi è parte del Partito Popolare Europeo, la grande famiglia della democrazia e della libertà in Europa. C'è dell'altro Berlusconi, chiede regia, no, non c'è, ce n'è un altro, allora sentiamo anche quest'altro. Perché la realtà è sotto gli occhi di tutti, nonostante la manovra lo spread è tornato a livelli assolutamente elevati e gli italiani sono fortemente preoccupati per il carico di sacrifici che rischiano di diventare inutili se l'Unione Europea non cambia strategia, puntando non solo sul rigore ma anche sulla crescita. E soprattutto se la Banca Europea non diventa garante della moneta unica. A chi se queda la clara? 800 24 0024, riprendiamo con i vostri interventi. Abbiamo Aldo che ci chiama da Torino. Buonasera. Buonasera, signor Maurizio, seguo la sua trasmissione, mi piace. Volevo fare un riferimento. Prego. Al quanto ha dichiarato quel sindaco di quella città di Basilio, quel sindaco, diciamo che certe cose possono affermarle delle persone non dentro i problemi, però un sindaco che va a accusare la Germania di essere responsabile di quanto accade in Italia è letteralmente ridicolo, in quanto da dopo l'avvento della moneta unica, nei 10 anni attuali, non si è fatto nulla per scendere dal debito, pertanto i problemi sono solo nostri e se noi fossimo nei loro panni ci comporteremmo esattamente uguale, anzi se io fossi tedesco mi comporterei ancora di più, perché non mi fido di sedermi a un tavolo con una persona inaffidabile come sono stati i governi dall'avvento dell'euro fino al giorno d'oggi, totalmente inaffidabili, molto ciarlatani, molto ridicoli, anche buffoneschi, per cui alla fine uno ha raccolto e raccoglie quello che è. L'avvento di Monti è semplicemente una persona dal pugno di ferro in un guanto di velluto e quindi ha credibilità verso l'estero, poi le medicine possono piacere o non piacere, essere simpatiche o non simpatiche, ma quelle sono e diversamente non può essere. Pertanto se avessimo avuto dei ciarlatani tipo Berlusconi o anche Bersani o Ivetola o quei casini, saremmo andati a finire altro che la Grecia. Le aziende italiane potevano essere vendute al miglior acquirente straniero, ecco, questo è quello che io penso. Pertanto molta gente che adesso parla e critica dovrebbe solamente starsene zitta e andare a zappare la terra, questa è l'unica cosa che può fare. Grazie. Intanto vedo un servizio di Sky TG24 che conferma, ma l'abbiamo detto credo per tutto il giorno, Milano ordinanza antismog, quindi vietati botti e fuochi d'artificio, per chi ancora non lo sapesse, niente botti a Milano. Piccola divagazione, abbiamo un altro passaggio dell'ex Presidente del Consiglio che commenta il discorso di Monti e torna di nuovo sulla questione del suo futuro, il suo futuro politico, dice: sono ancora in campo, ma sentiamo esattamente cosa dice Berlusconi. Cambiare la nostra Italia è necessario ed è necessario anche per cambiare l'Europa. È questo l'impegno politico del futuro. E vedrà schierati in prima linea dalla nostra parte una nuova generazione, una nuova classe dirigente guidata da Angelino Alfano. Io questa classe dirigente non la lascerò sola, resterò in campo per vincere le prossime elezioni e perché il governo dell'Italia sia ancora affidato dagli elettori a una forza di democrazia e di libertà qual è la nostra. Era un messaggio registrato, si sentiva dal tono col solito smalto di Berlusconi, ma era un messaggio registrato, quindi non era un intervento, un'interlocuzione. Stiamo cercando l'audio di Carlo Taormina che due giorni fa da noi invece ha detto ma che Alfano? Alfano, Carlo Taormina, ex uomo politico di Forza Italia e vicino a Berlusconi, dice Berlusconi tornerà in campo, Alfano è solo un paravento, sentiamo. Beh no, Alfano è una brava persona, ma è una brava persona e basta, tutto qua. E poi non è più brava persona nel momento in cui, dovendo essere segretario del principale partito italiano, non fa altro che fare il verso a Berlusconi. E se non c'è autonomia, non c'è indipendenza, non c'è crescita. E in questa intervista Taormina diceva che secondo lui Monti avrà un futuro oltre il governo tecnico, potrebbe essere al Quirinale, Berlusconi tornerà in campo per contendersi la premiership alle prossime elezioni, anche se stasera Berlusconi ha detto resto in campo, ma siamo tutti dietro Alfano. Carlo da Genova, buonasera. Sì, buonasera, grazie per l'intervento. Grazie a lei, è lei che ci arricchisce col suo intervento, prego. Sì, parlo in quanto lavoro in Svizzera e non in settore finanziario di banche, ma azienda chimica, quindi nulla a che fare con i soldi. Se non che c'è grande stupore in Svizzera, comunque uno degli argomenti principali come da noi il calcio là sono i soldi, grande stupore perché Monti non ha applicato quello che tutti pensavano facesse, cioè quello che ha fatto la Germania o l'Inghilterra, un prelievo alla fonte direttamente con autorizzazione del governo svizzero di circa 15, 20 o 25 miliardi di euro da persone che hanno depositato in questi anni grandi capitali e ovviamente senza nomi o senza altri dati, no? Ma bensì quello che ha fatto la Germania. Cioè, in Svizzera se l'aspettavano perché dicevano sì. L'ha fatto la Gran Bretagna, l'hanno fatto altri, adesso lo farà anche l'Italia. Tremonti non può farlo per le ragioni che bene o male si possono immaginare. Cioè? Beh, insomma, la provenienza non era proprio politica, ma no, studio tributarista o cose, ecco, quindi. Ma si aspettava che Monti, ecco, da fronte a un certo rigore. Invece si è visto Monti toccare le solite cose, le tasse e quant'altro, le ICI, eccetera, e forse un 1,5% di chi aveva portato in Italia i capitali scudati. Quindi, prima di tutto non si possono riprendere perché magari le persone sono secretate e così erano rimaste, ecco. Quindi questo stupore, perché non andare insomma, a prendere... Lei vuol dire, cioè ci sta trasmettendo, come dire, lo stupore, sì, appunto, per una mancata misura di Monti che avrebbe potuto... Io però non lo so se questa operazione è così semplice, che invece in Svizzera davano per... L'ha fatta la Germania e Inghilterra, quindi sì. Con tanto di fiduciario dalla parte della banca centrale svizzera sulle banche centrali tedesche e inglesi, quindi poi a cascata... mantenendo l'anonimato di tutti, ecco, quindi per assurdo chi aveva portato i capitali ha perso anche il cambio di un 30%, quindi oltre ad aver perso il 5 eccetera, e chi ha mantenuto di là ha guadagnato sul cambio perché insomma da 1,5 a 1,20 balla circa un 30% e quindi si è mantenuto, ha rivalutato il proprio capitale e oggi non è stato minimamente toccato, ecco, quindi Vuole dire questo? Sì. Sì, una riflessione, ecco, poi andando un po' sul maligno, c'è chi pensa, insomma, forse certe posizioni di Pietro o di quant'altro, al di là che non le condividono politicamente, magari possono trovare dei fondamenti, perché, insomma, no, chi può tenere dei grandi capitali nascosti senza che siano toccati, è presumibile. Questo era un po' l'intervento. Grazie. Grazie Carlo, andiamo da Enzo che ci chiama invece da Viterbo, buonasera. Buonasera, dottor Maurizio. Innanzitutto auguri di buone feste, buon anno a tutti. Sì, la sentiamo un po' male, c'è un eco, che cos'è? C'è mica la radio accesa? Aspetti un attimo, aspetti. Sì. Allora, facciamo prima la pausa e poi torniamo con Enzo, che nel frattempo abbassa il volume della radio e ci parla solo al telefono tra pochissimo. E allora torniamo all'ascoltatore che ci chiama da Viterbo. Enzo, buonasera. Buonasera, dottor Maurizio. Eccoci. Sì, la sentiamo bene. Prego. Innanzitutto auguri di buon anno a lei e a tutta la redazione di Radio 24. Va bene, questo l'aveva già detto. Andiamo. Sì. Senta, ho sentito con il mio massimo dispiacere il Presidente del Consiglio di Riposo che... No, Enzo, non ci siamo, purtroppo la sentiamo male. Anche in questo caso proviamo a ristabilire... la connessione è meglio di questa, che non si capiva nulla, e riproviamo dopo. Andiamo a Marcello che ci chiama da Roma. Buonasera. Buonasera, salve. Io intervengo per raccontare che domani, come stanno facendo in questi giorni molti italiani, andrò all'estero ad aprire un conto. Quando dico estero intendo un paese europeo, quindi un conto in normalissimo accordo SEPA, quello che ci fa fare i bonifici, quello per cui noi possiamo lavorare in qualsiasi paese europeo e quindi avere anche un conto in qualsiasi paese europeo. Non lo faccio per nascondere soldi frutto di evasione, lo faccio semplicemente perché ritengo che il conto bancario sia una dei diritti inviolabili della gente, avere il segreto sul proprio conto bancario. Se vuole, invece perché in Italia cos'è? Cioè non, no, adesso non so se è al corrente, ma sì. Nell'ultima riforma Monti ci sono due provvedimenti riguardo ai conti bancari. Il primo è l'obbligo di averlo, che è contro qualsiasi legge del diritto, perché le banche sono private, quindi è come se a me mi obbligassero a comprarmi la pasta di una marca o insomma a comprarmi un cellulare, un assedio o qualsiasi cosa. È un accordo fra privati, non vedo perché io debba essere obbligato ad avere un conto. La seconda è che comunque il conto bancario è un prestito, non è neanche un deposito, perché la gente non lo sa, ma i soldi si prestano alla banca e con tutti i rischi del caso, non è un deposito per cui si paga una custodia e basta. E comunque la terza cosa è che poi su questo conto pensano di entrarci e farsi gli affari nostri, mi sembra proprio da 1984 Orwell, perché insomma io metterò questo conto tranquillamente, continuerò a fare le mie fatture, indicherò questo conto presso cui fare il bonifico e mi aspetto che i miei clienti paghino là, clienti privati e anche clienti pubblici. Ma lei ha qualcosa da nascondere? Assolutamente no, assolutamente. E allora no. Perché fa tutto questo? Per una ripicca di principio nei confronti dello Stato? Certamente, guardi... E ne vale la pena? Sì, il più piccolo, intanto costano meno, il più piccolo amministratore di condominio discorso, viene condannato per violazione della privacy quando appende l'elenco dei morosi fuori dal condominio. Non capisco perché qualsiasi funzionario di qualsiasi di tutte queste agenzie che stanno mettendo su debba sapere io come spendo i miei soldi. Assolutamente non lo ritengo corretto. Ripeto, io farò le mie fatture esattamente come prima, indicherò il conto in fondo alla fattura, soltanto che sarà un conto che non inizierà per IT ma inizierà con un altro acronimo. Va bene, grazie. Io non sono in grado di dirimere questa questione, assolutamente non ne so molto, dico solo che gli strumenti messi in campo dal governo sulla questione dei conti correnti mi sembrano norme possibili in un paese come l'Italia, dove c'è quanto? Vogliamo dire il 30% di evasione fiscale? Che non vuol dire che, come dice lei, qualunque agente del fisco si deve fare gli affari suoi. Non lo fanno certo per farsi gli affari degli altri. Non è questo il punto, insomma, poi ognuno ci può vedere quello che vuole. Io ripeto, una misura possibile perché... per iniziare questa benedetta lotta all'evasione fiscale, altrimenti mi dovete spiegare da dove dobbiamo iniziarla. Non va mai bene nessuna iniziativa su questo versante e questa purtroppo è la verità. Dove andiamo? Andiamo a Gianfranco, sempre da Genova. Buonasera. Era lei. Eccoci. Sente? Sì. Ah, sono in linea. Forte e chiaro, in diretta, sì, prego. Ma guardi, io ho piacere di sentirla per esternarle sinceramente un disaccordo su due cose che l'ho sentito in apertura di trasmissione. Sì. Primo, il mettere insieme Fidel Che Guevara, che per quello che sono le mie reminiscenze storiche sono personaggi che hanno avuto un tipo di vita, una coerenza di comportamento con gli ideali estremamente diversi. Vabbè, non ce l'avevo la musica su Fidel Castro, c'era solo quella su Che Guevara. Però, poi? Insomma, sì. Diciamo, fidare una cosa c'è stata. Secondo, diciamo che mettere vicino una persona come Monti a Fidel Castro mi ha proprio fatto, dico, beh, come provocazione è perfetta, insomma. Io sinceramente non ho sentito tutta la conferenza, il termine esatto non lo so, insomma, di sì, la conferenza stampa. Ho sentito solo alcune risposte, domande, e sinceramente le cose le ho gradite molto, perché mi ha fatto piacere vedere che non c'era nessuna reticenza, nessuna boria o quant'altro a rispondere a qualsiasi tipo di domanda gli sia stata rivolta. E ultima cosa che vorrei aggiungere, sì, a parte, diciamo, il perfetto accordo col mio, diciamo, concittadino che ha parlato prima della imposizione fiscale sui capitali all'estero, sui capitali in Svizzera, è che io ho i figli che sono all'estero in Germania, ed è assicuro che da quando è cambiato il Presidente del Consiglio, l'approccio dei tedeschi verso di noi è cambiato. Addirittura in sede universitaria hanno lanciato un bigliettino di complimenti nel momento in cui c'è stato un cambio di passo e un cambio del Presidente del Consiglio. Io non è che voglio dire di essere anti-berlusconiano, però sinceramente gli ultimi periodi del periodo del precedente governo sono stati piuttosto oscuri per noi, no? Sì, ma insomma, pagando. Che Monti sia abbia un feeling con la Germania e sia il più tedesco tra gli italiani è indubbio. Allora le faccio sentire un passaggio di Monti che scherza e ironizza a suo modo, con leggerezza, molto leggero, sul ritratto che ne fa la stampa tedesca, nominandolo il genero ideale. Io ho ricevuto sulla Süddeutsche Zeitung il più bel complimento che abbia mai ricevuto. La Süddeutsche Zeitung ha scritto che il nuovo primo ministro italiano Mario Monti è il genero ideale. Perché parla poco, lei oggi qui non avrà la stessa impressione, ma parla poco, veste in modo serio e banale, non è molto rumoroso, quindi ecco, credo che agli occhi dei tedeschi sia già, insomma, il più è fatto. Eccolo qua, e Monti in realtà è tedesco, sì, è nato in Germania, questo volevo dire, abbiamo scoperto un documento segreto, è nato a Düsseldorf. Dalla regia mi guardano con aria interrogativa, no, sto scherzando naturalmente. Lorenzo da Roma, buonasera. Buonasera. Prego. Niente. Premetto che sono una vittima delle liberalizzazioni selvagge di Bersani, per cui grazie a lui oggi... Cosa ha perso? Un braccio? Una gamba? Cos'è successo? Ho perso il lavoro. Perso il lavoro. Grazie a lui. Lei che lavoro faceva? Era un commerciante, piccolo commerciante, grazie alla liberalizzazione delle grandi licenze mi ritrovo in mezzo alla strada per via della concorrenza. Va bene. Cioè, lei che negozio aveva? Io avevo un negozio di vendita al dettaglio, è arrivata la grande distribuzione, ha messo il suo negozio, concorrenza è spietata e sì. D'altra parte non... Però scusi, adesso lei ci racconti bene. Ma Bersani non c'entra nulla, guardi, Bersani non c'entra nulla. Ma mi scusi, non mi faccia difendere Bersani, ma Bersani non c'entra nulla, cioè lei è vittima della concorrenza dei centri commerciali, mi scusi, non c'entra nulla Bersani. Se lo può andare a leggere, la liberalizzazione della legge Bersani. Ma i centri commerciali non li ha inventati Bersani, sono arrivati comunque i grandi centri di distribuzione che hanno fatto chiudere molti piccoli negozi. A malincuore lo dico perché mi dispiace anche a me di questo. Però bastava salvaguardare le piccole aziende, anche se c'era stato cenno di voler far rientrare le piccole licenze. Vabbè, ma comunque è tutto un altro argomento a quello che volevo parlare. Comunque sono una vittima delle liberalizzazioni selvagge, nel senso liberalizziamo. Sì. Ma perché invece di liberalizzare, e bene fanno, attenzione, è un argomento di atteso, ma alla fine forse di questo governo Monti, non parliamo degli sprechi. Cioè, da una parte gli italiani sono costretti a salvaguardare quel poco di stipendio che ci è rimasto per dare una mano allo Stato italiano ad andare avanti, e poi si vede che la Polverini autorizza 80 rendite vitalizie, un altro senatore, un altro politico autorizza le cosiddette uova di strutto. Guarda, non ce lo dica a noi, che sono 4 giorni che cerchiamo di intervistare la Polverini su questa questione terribile dei vitalizi, che ha esteso anche agli assessori esterni. Insomma, ma non siamo riusciti a avere l'intervista, non vuol parlare su questo, almeno non con noi, ma mi pare che non parli con nessuno. Forse è un po' in difficoltà perché c'è un po' di pressione da parte, giustamente, di gente come lei, l'opinione pubblica, che non ne può più di queste robe qua, no? Dovrebbe rispondere, sì, l'amministratore, il governatore della regione Campania, che ha da 80.000 euro di spese per telefonini, eccetera, eccetera, diciamo spese correnti, hanno previsto in bilancio futuro, quindi previsto per i futuri 3 anni, 1.300.000 euro. 1.300.000 euro. Resti con noi perché tra poco questa intervista la facciamo. Allora a questo punto sveliamo, perché dovremo sentire un assessore campano anche su questo tra poco. Enzo da Udine intanto, buonasera. Sì, buonasera, complimenti per la trasmissione, ma i temi trattati sarebbero talmente tanti che in 5 minuti forse non si riesce a dire tutto. Comunque, io credo che questo nuovo governo, benché non sia quello che io mi sarei aspettato, sicuramente farà bene all'Italia, per un semplice motivo, che da un lato porterà austerità, rigore, molta più povertà probabilmente, e quindi tante persone che pretendevano e pretendono ancora cose assurde da un'Italia che non ce la fa a sostenere sprechi allucinanti, alla fine sarà costretta forse anche a rivedere un po' tutto il suo stile di vita. Adesso noi abbiamo fatto un favore alla Germania con queste scelte, perché ovviamente la Germania, l'Inghilterra, la Francia, che hanno fatto delle scelte impopolari, lacrime e sangue per i loro cittadini, certamente non vedevano di buon occhio il fatto che in Italia stessimo così bene e magari chiedessimo alla banca centrale di sostenere con gli acquisti dei titoli di Stato, di evitare la speculazione finanziaria, speculazione che è iniziata a giugno, quindi fine a giugno noi abbiamo sostenuto una crisi economica in modo egregio, meglio di tutti gli altri. Da giugno è iniziata la crisi, la speculazione finanziaria che in questo caso i provvedimenti che sono stati presi servono soltanto a dare un segnale di sacrificio, e quindi, ma non servono a migliorare le cose, perché l'unico dato... Enzo, se ha finito il suo intervento ci fermiamo qua, se invece vuol proseguire però dobbiamo fare una pausa per la pubblicità. Stavo guardando un po' dei vostri interventi su Facebook, c'è chi dice come Umberto che alle prossime elezioni voterà Scilipoti, qualcuno commenta l'ascoltatore che parlava del conto corrente che va ad aprirsi all'estero, dice Giovanni, dove c'è gusto non c'è perdenza, vabbè. E poi invece al 349-238-6666, questa è bellissima, ho ascoltato tutta la conferenza di Monti in aereo, cosa c'è di strano? L'aereo lo pilotavo io, questo ascoltatore, spero che non si sia distratto creando qualche problema ai passeggeri. Abbiamo i titoli ancora? No, non li abbiamo ancora. Allora riprendiamo Enzo da Udine, l'avevamo troncato, voleva finire il suo intervento. Sì. Sarò brevissimo. L'unico dato certo e chiaro, utile a livello economico è l'indicatore della crescita, cioè il PIL. E con l'avvento di Monti il PIL è stato ridotto dall'1% che era la previsione con rimanendo Berlusconi a -1,5% che è quello attuale, quindi diciamo la credibilità internazionale che diciamo di avere a chiacchiere di fatto ha portato l'Europa a dire che noi cresceremo meno, ha previsto con Monti che noi cresceremo di meno, quindi a parole forse gli dà tutto questo consenso, ma nei fatti la previsione reale è che cresceremo di meno, e quindi la manovra che è stata fatta a malapena riuscirà a coprire la riduzione di crescita che la manovra stessa ha comportato. Grazie Enzo, grazie. Voglio salutare il prossimo ospite, Giovanni Romano, assessore all'ambiente della regione Campania del PDL, buonasera. Buonasera. Col quale commenteremo tra poco la situazione per quanto riguarda i rifiuti a Napoli, perché incombe la multa dell'Unione Europea sulla città e cerchiamo di capire quali sono le mosse anche del sindaco De Magistris, che vuol mandare rifiuti in Olanda. Invece l'assessore campano Romano dice che questa è solo una trovata mediatica. Tra un attimo però, perché, caro assessore, non so se ha sentito, se era già collegato poco fa, un ascoltatore casualmente parlando di sprechi lamentava il fatto che nella vostra legge di bilancio, che si sta chiudendo, non so se l'avete già chiusa in queste ore. No, oggi è iniziata la discussione e proseguirà domani. Oggi è iniziata la discussione, benissimo. Si legge di una norma che aumenta la spesa per i telefonini degli assessori o dei consiglieri, vediamo un attimo, adesso ci arrivo, portandola da una cifra più bassa a 1.300.000 euro l'anno prossimo, mentre si tagliano per esempio alcune borse di studio. Guardi, sì, questa cosa l'ho letta anche io, peraltro stamattina su alcuni quotidiani. Come l'ha letta? Lei è assessore e non la sapeva? No, non la sapevo, nel senso che il testo della legge finanziaria è sottoposto a continui rimaneggiamenti da parte delle competenti commissioni. Però mi sembra che sia stata una errata interpretazione di una riorganizzazione complessiva delle spese. Quindi non sono solo le spese del personale politico, ma in un unico centro di costo sono state accorpate più voci di spesa, per cui la somma in realtà è inferiore rispetto a quello che si spendeva prima. Quindi lei mi sta dicendo che le spese per il telefonino dei consiglieri non aumenterà l'anno prossimo? No, assolutamente no. Ecco, questo è già un impegno, e quindi abbiamo risposto all'ascoltatore, e l'assessore Romano qua si è impegnato almeno su questo. Senta, credo che anche la questione dei vitalizi dei consiglieri e degli assessori rientri in qualche modo in queste ore nella legge di bilancio. Non so se tecnicamente la farete passare di lì, perché c'è un impegno dell'Assemblea delle Regioni Italiane a andare in quella direzione. Voi come siete messi con i vitalizi? Li abolite? Ma guardi, per i vitalizi sono stati già precedentemente concessi altri provvedimenti enormemente ridotti, e in ogni caso è nata la possibilità che il vitalizio scatti a fine mandato, ma in realtà si passa alla regola contributiva, per cui è al termine delle attività. Per quanto mi riguarda, io dico che il vitalizio può essere, ovviamente in misura adeguata, una prerogativa del consigliere regionale. Non penso che sia giusto che possa anche essere esteso agli assessori, soprattutto quando sono di nomina esterna. E questa è la questione del Lazio. Però, ecco, che è un in più, ma già il fatto di concedere il vitalizio ai consiglieri regionali, cioè come principio, cioè un assegno che scatta al termine della prestazione, quando invece tutti i lavoratori prendono una normale pensione, però raggiunta l'età. Io non ho capito però se la Regione Campania su questo ha già fatto la riforma o la state facendo, e che cosa avete fatto? La si sta facendo e si va verso la normale attività contributiva per l'esercizio di un'attività professionale, che sarà cumulata con il resto dei versamenti che verranno fatti nell'esercizio dell'attività lavorativa primaria. Quindi sistema contributivo. Esatto, sistema contributivo, così come per esempio funziona per anche altre cariche. Ecco, però lo state facendo, ma non l'avete ancora fatto, perché c'è tempo, credo, fino a febbraio, non so, c'è una. Ma guardi, ci sono degli atti prodromici che sono stati già realizzati con degli indirizzi del Consiglio regionale, e un altro pezzo della manovra è contenuta nella legge finanziaria. Ma come mai non l'avete già fatto? Non è una priorità per voi questa, evidentemente, ne avete altre forse? No, guardi, è una priorità sicuramente, però la Regione Campania di priorità ne ha tantissime che riguardano tutta una serie di altri settori. No, però guardi, però anche risparmiare un po' di soldi dei cittadini campani non è male, No, perché ma si questo, gettano le basi per risolvere i problemi futuri. Certo, ma sicuramente anche questa è una delle cose che va fatta con una certa attenzione, ma soprattutto una certa velocità, soprattutto per dare anche un segnale ai cittadini e tentare di ricostruire questo legame di fiducia che, è vero, al momento è fortemente affievolito rispetto alle istituzioni e alla credibilità delle istituzioni stesse. Veniamo alla questione rifiuti. Lei ha criticato la decisione, adesso ci dirà perché, del sindaco di Napoli, De Magistris, che vuole mandare i rifiuti in Olanda. Non si sa bene se sono già partite queste navi e che se non si fa qualcosa tra qualche giorno scatta la multa dell'Unione Europea. Tra un attimo, prima però facciamo una piccola pausa. Caro Assessore, allora la domanda è questa. De Magistris vuol mandare questi benedetti rifiuti in Olanda, lei però ha eccepito che non è questa la strada da seguire, è così? Perché? Non è questa la strada da seguire perché i rifiuti che dovrebbero partire, non sono ancora partiti, per la verità sono 8 mesi che aspettiamo, non sono i rifiuti dei quali noi dobbiamo liberarci in Campania, e cioè i rifiuti campani sono di due tipi, vengono lavorati negli stabilimenti, metà diventa frazione secca, metà diventa frazione umida. Noi abbiamo un problema con la frazione umida tritovagliata, perché quella deve andare in discarica, e noi di discariche ne abbiamo poche, quelle poche che abbiamo sono in fase di esaurimento. Invece il Comune di Napoli manda in Olanda la frazione secca, quella che invece normalmente noi bruciamo nel termovalorizzatore di Acerra, che ha raggiunto le 600.000 tonnellate il 23 di dicembre, quindi brucia come da progetto, e rispetto al quale le 5 società provinciali che gestiscono il ciclo nelle 5 province per il 2011 non hanno pagato manco un centesimo. Per cui non ha senso mandare una nave in Olanda, ecco perché io dicevo in maniera provocatoria, sembra un'operazione mediatica, per smaltire una frazione secca che in questo momento non rappresenta un problema. Il nostro problema è la frazione umida, quella la devi mandare in discarica, se non ce le hai le devi fare. E quindi secondo lei De Magistris sta sbagliando su tutta la linea da questo punto di vista? De Magistris, secondo me, peraltro stamattina lo ha ammesso anche il vice sindaco di Napoli, Sodano, ha un po' peccato di inesperienza. Io ho sempre sostenuto, l'esperienza mi insegna, che sui rifiuti non ci sono certezze, quando sembra che tu abbia raggiunto la soluzione, poi alla fine invece devi ricominciare da capo. Il problema vero è questo, che tutta l'azione del Comune di Napoli e del sindaco De Magistris è, teleologicamente parlando, finalizzata a dimostrare che non c'è bisogno dell'inceneritore, quindi non dobbiamo fare Napoli Est. Sotto questo punto di vista lui utilizza tutte le strategie possibili. Cioè Napoli Est sarebbe l'altro inceneritore. Napoli Est sarebbe l'altro inceneritore. Sì. Il ciclo integrato dei rifiuti in Campania si chiude con 3 impianti di incenerimento. Cioè lei dice, siccome De Magistris non vuole fare questo impianto, perché per questioni sue, allora... No, per questioni anche di impostazione, di formazione, per questioni, sì, di politica, questioni sue in senso di politica sua, sì. Però purtroppo questa posizione si scontra con il dato fattuale. Il dato fattuale ci dice che dobbiamo smaltire, al netto della differenziata al 65%, 1.400.000 tonnellate all'anno di rifiuti. E questo lo dobbiamo fare... Ma questo parliamo di Napoli o della Campania? Sto parlando di tutta la Campania. Tutta la Campania. E questo purtroppo lo dobbiamo fare con gli inceneritori, perché non abbiamo discariche e non abbiamo spazi, o non abbiamo anche zone per poterne fare abbastanza. A proposito di inceneritori, scusi, la interrompo un attimo. C'è un ascoltatore, ha citato il termovalorizzatore di Acerra, appunto, ci chiede un ascoltatore, ma funziona il termovalorizzatore che inaugurò Berlusconi? Il termovalorizzatore di Acerra il 23 di dicembre di quest'anno alle 16.10 ha raggiunto quota 600.000 tonnellate di rifiuti bruciati nell'intero anno, cioè esattamente quello da progetto, è un caso da manuale e le posso dire, perché io lo monitoro tutti i giorni, sì. Non ha sforato un solo giorno con le emissioni, è controllato direttamente dagli organi della Commissione Europea. E se noi non avessimo avuto quel termovalorizzatore in funzione, altro che i primi piani dei palazzi, saremmo stati sommersi dall'immondizia. L'inceneritore è un impianto che funziona bene a condizione che tu sappia che cosa ci va dentro, è come il camino di casa. Certo, se ci metti qualunque cosa esce fuori. Se ci metti la formica ti libera formaldeide nel processo di combustione e quindi sei un cretino se ce la metti. Allora bisogna essere corretti, non avere pregiudizi e assicurarsi che gli impianti siano costruiti bene e gestiti meglio, sapendo che ci va dentro. Senta, ma secondo lei alla fine questa multa piuttosto salata... La pagherà la Campania, guardi, dottore, ma arriverà? La pagherà la Campania. Arriverà e sarà di 516.000 euro al giorno e il ministro Clini è stato estremamente chiaro, e a mio avviso ha avuto anche ragione, quando ci ha detto, siccome siete l'unica regione in infrazione per i rifiuti, sappiate che se arriva la sanzione la pagherete voi, nel senso che lo Stato italiano non si farà carico, perché lei sa che è condannata alla Repubblica italiana. Ma infatti, ma tecnicamente la sanzione lui ha detto così, ma... Ma tecnicamente è molto facile, dottore, guardi, perché sa che cosa succederà? Che ci tratterranno le risorse sul POR, sul FAS, sui trasferimenti del Piano Sud, ma le dico anche che avrebbero anche ragione a farlo. perché noi sappiamo qual è la soluzione, dobbiamo semplicemente farlo. Si figuri, io in un anno sono riuscito a costruire e poi a far approvare un piano che la Regione aspettava da 17 anni. La Commissione Europea e gli organi tecnici che l'hanno valutato mi hanno detto va benissimo, è uno dei migliori piani che si possono realizzare, lo dovete fare. Perché non lo fate? Quindi non siamo più al tempo in cui possiamo decidere o discettare, noi sappiamo che cosa fare. Fare discariche comprensoriali nei 4 anni che ci separano dalla realizzazione degli impianti finali, attivare subito i lavori a Salerno dove il termovalorizzatore ha già concluso la sua gara e concludere la gara a Napoli Est. Questo è quello che dobbiamo fare se vogliamo risolvere il problema. Se poi vogliamo fare altre cose, campagna elettorale, polemica, politica... C'è margine per trovare un accordo con il sindaco della città, che è un'autorità credo che necessaria per voi, sì. Certo, necessaria e che io rispetto. Io farò di tutto, come ho sempre fatto finora, per trovare un accordo, perché penso che sia mio dovere farlo. Il problema non è di Giovanni Romano in quanto tale, ma dell'istituzione che temporaneamente... rappresento. Sì, perché a volte sembra che ci sia una scarica barile, perché se adesso intervistassi De Magistris direbbe probabilmente altre cose di segno opposto e direbbe che è colpa sua. Guardi, non è un problema politico, questa è una maledizione che ci perseguita da 17 anni, non possiamo più portarcelo addosso, per cui a costo anche di fare alleanze con il diavolo, ma bisogna risolvere il problema, per cui rispetto alla posizione del Comune di Napoli, che per carità è legittima, io ritengo che ci si debba, con senso di responsabilità, attenersi ai fatti, ai dati scientifici e non lasciarsi guidare dai pregiudizi. Senta, voglio fare anche una domanda sul caso di Nicola Cosentino, se vuol rispondere, il coordinatore del suo partito in Campania, coinvolto in inchieste, accusato tra l'altro con anche una sentenza della Cassazione che conferma la richiesta di arresto per un'accusa piuttosto pesante, credo concorso esterno in associazione camorristica, e c'è un dibattito, quel che leggiamo sui giornali, un po' di retroscena nel suo partito, qualcuno dice Cosentino dovrebbe fare un passo di lato, cosa che i vertici però del suo partito non gli hanno mai chiesto. Tra poco, dopo il traffico, ci risponde l'assessore Romano della Campania. Sembra un gioco di parole, ma è così. Allora, l'assessore Giovanni Romano, la domanda sulla questione Cosentino. Lei da quale parte si schiera, se si schiera su questa questione? Deve, con un'accusa così pesante, farsi da parte o no? Guardi, io conosco bene Nicola Cosentino da diversi anni, conosco gran parte della sua storia politica e le posso dire che ci sono state tantissime occasioni nelle quali l'onorevole Cosentino aveva deciso ed era pronto a fare questo passo al lato o questo passo indietro, e che gli è stato chiesto di non farlo, perché i rapporti umani e politici che Nicola Cosentino ha costruito in Campania sono forti, sono molto radicati, con un partito che è stato in costante crescita negli ultimi 10 anni e che ovviamente ha avuto risultati elettorali ragguardevoli. Ed è proprio questo contesto, questa comunità umana, quella del Popolo della Libertà della Regione Campania, che gli ha chiesto ripetutamente di non farlo. Probabilmente per Nicola Cosentino sarebbe stata la scelta più facile, perché io sono convinto che facendo un passo indietro... Non lo so, perché un politico che fa un passo indietro non fa mai una scelta tanto facile, però questa comunità... Se il politico è convinto di non aver commesso determinate cose, il passo indietro lo aiuta, lo agevola. Scusi, però questa comunità che lei dice che chiede a Cosentino di non farsi di lato, a parte che c'è una parte invece di esponenti del PDL, adesso non ho l'articolo sotto mano, che chiedono invece questo passo indietro, ma quello che voglio dire è che dovrebbe contare questa accusa che c'è e questa sentenza della Cassazione, si è detto più volte, che in qualche modo conferma la richiesta d'arresto, tra l'altro si voterà il 10 gennaio alla Camera, è già un fatto dal punto di vista giudiziario. Non basta un'accusa del genere per fare qualcosa in più che non sia questa questione dei rapporti umani che lui può avere creato, però un politico ha una responsabilità pubblica e quindi la questione che viene posta è questa di fronte a questa sentenza. Sì. Romano, guardi, sì, condivido la impostazione del suo ragionamento, però un minuto dopo devo poi dire che questo è affidato all'intelligenza, alla sensibilità. A lui. E certo, non possiamo chiederlo. Guardi, io senso che c'è un tempo in cui maturano tutte le decisioni. Ma scusi, cioè, però uno può avere, nel partito uno che ha anche una condanna, mettiamo che lui sia condannato in modo definitivo, spetterebbe sempre a lui, oppure invece ci sarebbe un fatto oggettivo? No, attenzione, no, allora, noi siamo... voglio dire, io, lei, ma tutti in Italia, no? Siamo tutelati da uno Stato di diritto, certo, che ci dice che ci sono delle fasi procedurali nelle quali, se ci si accusa, noi abbiamo determinate garanzie per poter far valere le nostre ragioni. Se poi si arriva ad un processo e si accerta che quell'accusa è realmente corrispondente ad una fattispecie di reato, beh, allora in quel caso c'è la condanna. Noi non stiamo parlando ancora di condanne, la sentenza della Cassazione conferma che ci sono gli estremi per la restrizione di libertà, ma non per aver accertato... Beh, è già un punto, dal punto di vista giudiziario, certo, sarebbe già un fatto. Ma guardi, le posso dire, ci sono tantissime situazioni nelle quali la restrizione di libertà riguarda anche il non inquinamento di prove, la non prosecuzione di attività, ma questo non significa che il fatto contestato sia stato accertato. Quindi noi non stiamo parlando di una persona condannata, perché se Nicola Cosentino fosse stato già condannato, beh, io e lei non saremmo manco a parlare di questo. Certo, sarebbe tutt'altro lo scenario. Tutt'altro scenario. Assessore Romano, le voglio chiedere un'ultima cosa. Lei è anche sindaco di Mercato San Severino? Sì, Mercato San Severino, provincia di Salerno. Paese in provincia di Salerno, quanti abitanti? Mercato San Severino, 22.000 abitanti. Beh, un bel paesone. Come andate alla raccolta differenziata, visto che abbiamo parlato di rifiuti e di Napoli? Ci dica un po'. Guardi, questo. Le dico questo, perché a Mercato San Severino nel 1999, sì? Quindi 11 anni fa, noi siamo stati quelli che hanno inventato il sistema della raccolta differenziata porta a porta, con i codici a barre, la tariffa, lo sconto, chi più differenzia meno paga. Siamo intorno al 70% oramai da 11 anni. Andate fortissimo allora, via. Andiamo benissimo. Bene. E soprattutto le posso dire, abbiamo dimostrato che la raccolta differenziata non è un problema tecnico, ma è solo di volontà, e che contribuisce a far cambiare le abitudini alla gente, educandole, facendo crescere le generazioni più attente all'ambiente. Benissimo, grazie. Grazie a lei. Buona serata. E allora riprendiamo con quest'ultimo spicchio di trasmissione, con i vostri interventi. Cari ascoltatori, Roberto da Forlì, buonasera. Buonasera. Eccoci. Sta entrando in casa, ha chiuso la porta in questo momento. No, sto lavorando, ho finito di scaricare adesso il camion, col telefono nelle mani. Ah, con la terza mano quindi stava scaricando. Sì, anzi, stava tenendo il telefono. Ascolti, no, io ho chiamato perché sono un commerciante di Forlì, ho visto un po', sento spesso la sua trasmissione. Sì. Volevo dire che questa situazione che si sta creando, che si è creata, che continua ad essere oggi, ci sarebbe tanto da dire, ma non è sufficiente il tempo. Il governo Monti ha preso delle decisioni che sicuramente, se erano da fare, qualcuno le doveva fare, ma il problema è che non è la soluzione. Il problema di fondo è il fattore del prodotto interno, dell'economia, che è bloccata. La gente non ce la fa, non ce la fa andare avanti. Qui deve ripartire l'economia, non mettere le tasse. Il concetto iniziale è sbagliato. Oggi credo che le tre ore di noiosa conferenza stampa di Monti fossero teoricamente dedicate a questo tema. Staremo a vedere, che vuole che le dica. Grazie. Grazie Roberto. Andiamo ad Armando, che ci chiama da Pesaro. Buonasera. Niente, io sono un ristoratore di Pesaro. Sì? Niente, c'ho abbastanza sotto il polso della situazione. Ristorante di carne o di pesce? No, di carne. Perché abito in provincia, in collina. Non sul mare, va bene. Sì. Comunque, ad ogni modo, io noi specialità del suo ristorante? Più noi ristoranti medi, piuttosto che ristoranti. La specialità, visto che sono le 8:30, così tra un po' andiamo. Qual è? Noi facciamo veramente le cose fatte in casa, pasta, salumi, queste cose qua, molto molto a livello tradizionale, proprio da tanti anni. Abbiamo un ristorante dal 52, quindi siamo molto molto vecchi, insomma, di questo lavoro. Il problema è che io vedo che soffriamo molto di più noi locali medio-piccoli di livello che quelli alti, perché quelli alti la gente che ha soldi va in quelli dove spende molto, e quelli dove spendono poco la gente non ha più soldi, quindi non esce più neanche. Però teoricamente dovrebbe essere vero il contrario, cioè che nei ristoranti dove si spende poco poi purtroppo non è così, perché quelli che hanno soldi non vanno dove spendono poco, anche restano comunque legati, a parte questo, io volevo dire, cioè, la sua esperienza è questa: in questo momento in un ristorante economico e la gente viene di meno. Quell'economico dopo non ci vanno quelli che hanno molti soldi. Il discorso è quello. Sì. Io ho 52 anni e ho fatto sempre questo lavoro, quindi lo vedo bene il discorso. Allora, su Monti, io volevo sapere una cosa: come noi facciamo adesso nel 2013 andare a votare? Io volevo capire questo. come si fa a non andare a votare quanto c'è, per quasi due anni ci sarà un governo tecnico e quindi i partiti politici non potranno dimostrare quello che sanno fare, voglio dire, capito? Come fa uno andare a votare? Cioè, per chi come fa a votare uno? A dire voto PDL, voto PD, se questi due insieme hanno portato avanti il governo Monti senza poi sapere cosa hanno fatto di serio, voglio dire, perché fa il governo Monti, quindi loro dicono sì o no, però cosa sai te se le cose vanno bene o male? Di solito si prende un governo per quello che fa lui, non per quello che fanno altri. Quindi nel 2013 andavo a votare per chi? No, lo so, ricadremo evidente, lei ha ragione, cioè ci sarà un margine di libertà per i partiti che hanno sostenuto Monti pur non essendo il loro governo né del PD né del PDL, quindi si potranno discostare a piacere da quello che ha fatto Monti, poi sarà agli elettori cercare di capirci qualcosa, però è vero quello che le dice. Da questo punto di vista potrebbe esserci insomma una forma di imbarazzo e di ambiguità. Va bene, ha finito? Vuole dire qualcos'altro? Non escono più, non vanno al ristorante, non vanno in vacanza come sappiamo che i vostri telegiornali tutto quanto. Perché il motivo? Che non hanno soldi. All'inizio delle festività, fare una manovra come quella che ha fatto, con la benzina più alta, tutto il resto, non è possibile fare delle cose del genere, non è possibile. Perché la crescita sia solo potendo far spendere i soldi alla gente. Se tu dai 200-300 euro in più a un operaio e 200-300 euro in più a un pensionato, quello li rispendi i soldi. Sì, va bene, grazie. Vanno a volte più a mandare fuori, vanno a volte più a prendere un vestito o il resto, se no non si cambierà mai niente così. Andiamo a Napoli, dove ci chiama Gianni, buonasera. Buonasera a lei, auguri. Prego. E niente, ho sentito in trasmissione l'intervento per quanto riguarda i rifiuti e tengo presente che comunque noi come azienda privata stiamo facendo una sperimentazione avanzata con la micronizzazione dei rifiuti. Con la micronizzazione. Micronizzazione, che cosa vuol dire? E micronizzare significa passare i rifiuti che arrivano in piattaforma che oggi si chiama CSS, dopo che sono stata fatta la differenziata, e quel prodotto ha un potere di 24 megajoule, significa energia che viene sprecata. E noi stiamo in una fase avanzata e stiamo sperimentando su... Cioè li bruciate? No, li micronizziamo e li trasformiamo tipo pallets per usi industriali. Siamo con le certificazioni... E dov'è che state? A Napoli? Siamo a Napoli, abbiamo già presentato 7-8 anni fa un termovalorizzatore su nave, abbiamo continuato, abbiamo portato avanti l'esperienza di Paolo Plesce del CNR con il TOR e siamo andati ancora avanti, e però purtroppo il sindaco ci siamo incontrati per una manifestazione che venne il Presidente della Repubblica all'Accademia di Pozzuoli, abbiamo mandato email, ma non chiamo nessuno perché hanno una loro logica, diciamo, delle palafitte. Cioè voi avete un sistema per smaltire i rifiuti e farci addirittura una cosa che poi serve come combustibile, però non vi danno retta, non riuscite ad avere un contratto con il Comune di Napoli? Pensi che quello che dico io, sì, sono un geometra. Ma voi lavorate con qualche altra amministrazione? Cioè, assolutamente dire... no, noi siamo un'azienda che ci occupiamo e quindi di, siete a secco? Ricerca. Ah, di fate ricerca. Di ricerca automaticamente siamo iscritti al Ministero dell'Università, abbiamo messo il nostro numero e comunque pure in Sicilia un impianto sperimentale, ci hanno messo i sigilli, e qui a Napoli stiamo facendo una sperimentazione molto riservata perché abbiamo paura di questa disinformazione, è importantissima la differenziata, ma è importante anche non buttare e bruciare energia. Grazie Gianni, questa testimonianza è sicuramente interessante da approfondire. Andiamo a Isidoro che ci chiama dalla Spezia, buonasera. Buonasera, grazie. Volevo fare alcune considerazioni personali sulla situazione attuale. Io sono un pensionato a 1400 euro nette, quindi subirò la deindicizzazione della mia pensione che non avrà aumenti, in più pagherò l'IMU, la benzina e tutto quant'altro. Però ho accettato di buon grado questo sacrificio perché sono convinto che questo governo, formato da veramente delle persone secondo me molto credibili, se lasciato lavorare ci porterà fuori dalla situazione in cui ci troviamo. Grazie Isidoro, io mi devo, le devo chiedere di fermarsi qua Isidoro, perché abbiamo esaurito il tempo, è quasi il primo che chiama stasera dando fiducia a Monti, così un modo diverso per chiudere questa serata. Magari lo richiamiamo domani, il pensionato della Spezia, però adesso dobbiamo chiudere, ci risentiamo domani dopo le 18. Buona serata a tutti.